ritardo. Siamo riusciti a mettere il nome e a connettere la musica. Siamo al compleanno di Exalge. Signore e signori, un anno dalla fondazione e un giorno con oggi. Abbiamo festeggiato e quindi mettiamo anche una bella canzone per il compleanno. Number One Party Anthem acustica. So you're on the prowl, wondering whether she left already or not. Leather jacket, collar pop like antenna, never knowing when to stop. Sunglasses indoors, par for the course. Lights in the floors and sweats on the walls. Cages and poles. Call off the search for your soul. I'll put it on hold again. She's having a sly indoor smoke, 'cause she calls the folks who run this her oldest friends. Sipping a drink and laughing at some imaginary jokes, as all the signals are sent, her eyes invite you to approach. And it seems as though those lumps in your throat that you just swallowed have got you going. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Number one party anthem. She's a certified mind blower, knowing full well that I don't. I may suggest this somewhere from which I might know her, just to get the ball to roll. Drunken monologues, confused because it's not like I'm falling in love. I just want you to do me no good. And you look like you could. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Number one party anthem. Come on, come on, come on. Before the moment's gone. Number one party anthem. Yeah, yeah. The look of love, the rush of blood. The she's with me's the Gallic shrugs. The shutter bugs, the camera plugs. The black and white and the color dots. The good time girls, the cubicles. The house of fun, the number one party anthem. Come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Poteva rischiare di essere una puntata molto musicale, ma e lo sarà in ogni caso, perché non si può sempre parlare, non si può sempre ascoltare le cavolate che vi dirò. Però sarà salvata da un intervento di Marta. Forse viene medico indiano inglese a parlarci di tracheotomie e come farle male. E poi parleremo ancora del compleanno di Exalge e eventualmente dell'ipotesi del tempo fantasma e dei complotti, dei calendari e delle date. Nel frattempo, noi siamo finalmente ad annunciare, essere felici nel dire chiamate, perché siamo finalmente connessi al wifi. E se mi chiamate, non cade la linea perché non sto più usando l'hotspot. Quindi, grandi raggiungimenti a un anno dalla fondazione Nexalge. Abbiamo installato la fibra e va velocissimo. Questo era uno dei complotti di Alge più tosti che abbiamo dovuto affrontare. Far arrivare la fibra in centro a Milano non è mai stato così complicato e difficile. E solo per noi. Quindi, ipotesi del tempo fantasma. E beh, vi piacerei un'altra bella canzone, così intanto vado a scegliere il libro da far leggere a Marta. Sempre Arctic Monkeys oggi. Be a vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a fog cortina that I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your. As the Pacific Ocean, I wanna be yours. Beh, forse un po' troppo sdolcinati, forse un po' troppo... Sì, però piacciono e ci portano a parlare, a capire cos'è l'ipotesi del tempo fantasma. Poi vediamo come applicarla a Alge. L'ipotesi del tempo fantasma è una teoria del complotto di carattere pseudo-storico, avanzata dal revisionista tedesco Herbert Illig. Si ipotizza che il sistema di datazione anno domini sia stato falsificato con l'aggiunta di un periodo di tempo fantasma nell'alto medioevo, tra il 614 e il 911. Quindi, gli eventi accaduti in Europa e nelle regioni limitrofe in realtà sono accaduti in un lasso temporale oppure non sono affatto accaduti. Come dire, noi esseri viventi del 2020 e 21 non potremmo mai dire che la storia prima di noi è veramente accaduta. Certo, potremmo credere a quello che c'è scritto nei libri, a quello che si trova come reperto archeologico, ma in verità non abbiamo la certezza. Solo del presente abbiamo la certezza. E che dire se a un certo punto gli storici hanno deciso che tra il 614 e il 911 non hanno aggiunto 300 anni così gratuitamente di storia. In verità noi siamo ancora nel 1700 e queste ipotesi vengono fondate su scarsità di prove archeologiche, inadeguatezza di metodi radiometrici e dendrocronologici applicati a questo periodo, presenza di architettura romanica nell'Europa occidentale del X secolo quello che suggerisce che l'era romana possa non essere durata quanto convenzionalmente si crede, la relazione tra il calendario giuliano, il calendario gregoriano e il corrispettivo anno tropico. Il primo introdotto da Giulio Cesare è noto introdurre una discrepanza rispetto all'anno tropico di circa un giorno per ogni secolo in cui è rimasto in vigore. Quando fu introdotto il calendario gregoriano nel 1582, il calcola una discrepanza di 13 giorni, mentre gli astronomi al servizio del Papa ne conteggiano solamente 10. Poi si sa, tutti i giorni che si tolgono, si mettono, ogni tanto succede, cambio calendario, ma vabbè, togliamo la domenica, quest'anno non è mai esistita, e beh, veramente non carino da parte dei temporologi farci sparire 300 anni così. E Alge anche, in verità è sempre esistita, ma fondata da solo un anno. E soltanto da quando inizi a mettere la burocrazia in regola e tutti i tuoi dati anagrafici vengono registrati, allora puoi dire che esisti. Speriamo che ci sia qualche ritrovamento archeologico oggi. È tutto archeologico, non c'è la C, ma c'è la C. Nel futuro, che possa testimoniare la nostra presenza in quest'epoca. O che esista l'associazione, perché in effetti da statuto l'associazione ha durata infinita. All'inizio avevamo pensato di metterla nel 2189, la fine dell'associazione, ma poi abbiamo detto, ma perché non metterla già direttamente infinita e vedere se qualcuno, dopo la nostra breve, miserabile vita, porta avanti comunque il progetto. 15, 16, un'altra song di Arctic Monkeys, questa si chiama Strange ed è anche questa bella mielosa. Strange how you stop loving me, how you stop needing me when he came along. Oh, how strange. Strange you change like night and day, just up and walked away when he came along. Oh, how strange. Well, I guess that I was just your puppet you held on a string. To think I thought you really loved me, but look what thoughts can bring. Strange, but you're still in all my dreams. Oh, such a funny thing, I still care for you. Oh, how strange. Well, I guess that I was just your puppet you held on a string. To think I thought you really loved me, but look what thoughts can bring. Oh, oh, oh, strange how you stop loving me, how you stop needing me when he came along. Oh, how strange, how strange. Io della teoria dell'ipotesi del tempo fantasma non ci ho capito niente, non so voi, non so, c'è un dibattito a riguardo, ci sono opere su opere di questo Illy, ma il nostro medico indiano, niente, in regia non mi rispondono, il bagno ha fagocitato il medico indiano. Sarà una puntata in inglese quindi, perché il medico ovviamente international, e noi intanto abbiamo selezionato qualcosa da leggere anche per Marta nel caso ci ascoltasse, volesse raggiungerci in studio. E come un famoso radiofonista disse una volta, quando non sai di cosa parlare parla di quello che sai, e quindi leggeremo l'editoriale e parleremo anche di questo progetto di Alge. Abbiamo deciso che, visto che ieri era il suo compleanno, un po' sta puntata ce la dedichiamo. Così spieghiamo anche ai nostri radioascoltatori cosa stanno ascoltando, spieghiamo il progetto della radio, così ci inventiamo un po' quello che dire. Welcome everybody, we have our medic, Indian from India, And please present yourself and maybe introduce the topic for today. Good morning, everybody. I'm here connected from Mumbai General Hospital. I'm sorry for being late, but of course, today I had to do my daily routine in yoga. I do it every day, and I suggest you to do the same, as always. So my name is Dr. Rakamashnan Traknanesh, and I am a physical doctor, MD, Royal Fellow of the College of International ICU Intensive Care Medicine here in Mumbai, and I am the fellow official best physician in 2018, 2019, 2011, and 2008 in the Royal English College of Neuro Intensive Care with the Professor Menon, and I have to disclose my commitment with all the founders like Coca-Cola and Fanta Foundation that of course helped me in all my research work in the field. And I'd like to say hey everybody, hello, and of course I have to say happy birthday to ex-Alger. Happy birthday to you too, doctor. I'm afraid I won't be able to conduct this interview seriously. Feel free to talk about anything. Here in the conspiracy hour, we try not to talk about COVID. I understand it's a main focus maybe in this period, but if otherwise you would like to talk about energy centers and your yoga practices, maybe, I don't know, it's free. Oh yes, I was advised about that, and I'm sorry being an intensive care physician. Of course, I have to manage and I have to face everyday situation about COVID. You know, we also in India, like yourself in Milan, we're forced to convert our practice, our daily practice, to this new bad virus that is COVID-19. So you asked me about tracheostomy. And I think that this is a very, very specific argument. I would like to leave you with these thinking. Maybe we will not talk about directly about COVID, but I would love to talk about death to all of you. Because when I came here in Milan, of course, all my colleagues referred to me as the best intensive care unit director of all the Asian continent. And when I came here last year in Milan to give my advices professionally, I was surprised about what was your conception of death. So I would like all of you Italians that are really concerned about 80 and 90 years old people dying to come in India and visit our sacred town that is Varanasi, the holy city of Varanasi. And I'd like you all Italian to come and to see what is our way to die. People from all around India take trains in third class, take planes in first class, no matter what is your social position, and we come to the holy river in Varanasi to get burned and to transpass and let the life cycle go on. So you will meet people waiting for their death. They don't care if they are 30 years old, 13 years old, 8 years old, or maybe 95 years old. You know, we in India, we have people of 250 years old, I have to tell you. And all of us together, we go there and we together share the death of our people. And when I say our people, I don't mean brothers and sisters, I mean just people. So it would be beautiful for you to come and see a human body burn. After 5 minutes, you will see the skin disappear. After 10 minutes, you will see the eye popping out from the skull. After 15 minutes, I repeat, the skull itself will explode and the cerebrum will come out liquid. So this, I think, is a point of view that Western people, you never face. All of us were going to die. And as my friend from Vatican City, the doctor Miciambilli, say always, memento mori, memento mori. So this is a thinking that I would like to share with you. Think about death. Thank you, Professor. I believe here in the Western world we actually don't have the circle of life. We love straight lines. Usually we don't get burned. We don't burn our bodies. We stick it to machines so they can keep going in some way on our straight line, on and on and on and on and on. So about these machines to which we stick, for some of them, for example, to breathe, we need tracheotomy, right? So I wonder what kind of knife you use. Serrated, straight edge, hatchet, so what kind of forks, spoons? I'm very glad for you to mention this procedure, because in our hospital, we actually use a brand new procedure that myself, Dr. Mishnahal Prakadesh, introduced in 2019. And we use a knife that was actually invented in Nepal from a very special force that is actually inside of the Royal Army of United Kingdom, England. And we merged this technology that was made for killing, and we merged this technology in our daily practice in the ICU, in the intensive care units. So actually, we simply use hashish for CDO analgesia. We introduce it directly into the brain to stop the analgesic receptors, and then we proceed with a first incision with a simple needle, and after this needle is inserted in the trachea through the neck. Of course, we use our special knife from the special forces of the Nepalese military units, and after that we introduce the endotracheal tube. So thanks to this procedure, that is quite faster than the percutaneous procedure that you idiots in the Western world continue using, we can perform tracheostomy percutaneously in 35 seconds. 35 seconds, that's quite advanced technology and practice. Since it talk about time, we're going to listen to Time in a Bottle, thanks to our listeners. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go. At tutti gli ascoltatori, come al solito vi state pippando un episodio dell'Ora del Complotto completamente improvvisato, dalla qualità sicuramente discutibile, e a tutti i non ascoltatori vi state perdendo l'episodio del secolo. E dunque, qua abbiamo trovato nell'editoriale numero meno 1 di Exalge, abbiamo trovato Il Bambino di Babilonia. Il Bambino di Babilonia ha anche di suo con il tempo, e c'è qui Marta che ha accompagnato il nostro medico indiano in studio, e già che c'è magari lo legge. Il Bambino di Babilonia non aiuta, disse il Bambino di Babilonia tornando a guardare le figure che aveva tracciato sulla sabbia. Così non si va da nessuna parte. Le coprì con una mossa del palmo, indice teso, ne tracciò di nuove. Sdraiato a fianco il fennec, la volpe del deserto, lo guardava in silenzio. Non c'è più tempo. Attorno a loro si levava un vento color senape, sbriciolando le case come biscotti. Una tempesta di sabbia, granulare confusione di una grandinata di couscous. L'intero paesaggio scivolava via, convergendo verso un unico punto fisso. Il bambino guardò le figure un'ultima volta. Non credo seppe nulla da loro. Quindi alzò lo sguardo verso la grande cupola in vetro. Era appannata, come sempre. L'orizzonte si restrinse e con esso il deserto, assottigliandosi velocemente per l'imbuto della clessidra. Una volta di là, depositatosi l'ultimo granello, per qualche momento tutto rimase fermo. Poi riemerse la volpe, scrollando il pelo. Infine il bambino di Babilonia. Questi, senza dire nulla, svuotò le tasche dalla sabbia, appianò il terreno con una pedata ad arco e ricominciò a disegnare le sue figure. Tutto riprese lentamente a scivolare. Fantastica lettura, grazie Marta. Non so se l'avete capito, forse non dovrei dirlo, ma cerchiamo di fare anche un po' di analisi testuale, contestuale. Il bambino di Babilonia vive in una clessidra. No, si era capito? Si era capito, scusate. Io non l'avevo capito, forse per quello che avevo bisogno di specificarlo. Qua ci dicono che le tracheotomie in emergenza si fanno anche in 5 secondi. Io penso che il nostro ospite abbia qualcosa da dire a riguardo. The emergency procedure is cricotomy and not tracheostomy. That is very different from the anatomical and functional point of view. And I invite you to study much more before contesting to the great professor Rakshmadan Karadesh, that is using his own time coming from Mumbai just to explain some very serious, and I have to repeat, very, very, very serious issue in the medicine world. Qua c'è un altro brano che Marta mi sembra stia studiando dall'editoriale. Diciamo che Il Bambino di Babilonia l'ha scritto Giovanni Sommazzi, in caso avesse voluto rimanere nell'anonimato. Ok, Marta, spacca il microfono. Uomini, la terra urla. Dove c'erano prati si sbriciolano sassi. Dove c'erano ghiacci, nuove terre emergono. Dove c'erano terre si mischiano ora i mari. Tutto muta. Anche tu, uomo, devi imparare a mutare. La certezza alla quale appartieni è un terreno sterile in questo mare di probabilità. L'oro è ora angelo, un nome unisex. Ripartire insieme, golem quali siamo, in metamorfosi, verso l'autopoiesi, figli della grande madre. Mettiamo le mani nel prodotto infimo che abbiamo creato. Circolo vizioso di una via autoreferenziale, percorsa da un uomo stanco di cercare. Oltre la siepe c'è sempre l'altro. Nel tempo delle oscillazioni, la controparte di Dioniso osserva, consapevole che l'ombra è destinata, per necessità, al ritorno della luce. Lontano vicino, rispetto dove i fatti accadono, il grande gioco avviene attraverso di loro. Fantastico, vedo delle note di perplessità sul volto di Marta. Vuoi spiegarci perché? No, no, no. Lei legge soltanto. Difficile l'analisi di questo testo. Nel frattempo che troviamo troviamo un altro, poi ci potrebbe stare anche il lonfo, ma mi hanno detto che bisogna acquisire una certa dose di serietà, quindi bisogna calarsi nel personaggio. Adesso ci ascoltiamo As Time Goes By. This day and age we're living in gives cause for apprehension, with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory, so we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. I And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. As time goes by, moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Sicuramente una di quelle cose che non andrebbero spiegate in radio, perché tu dici in parole una dopo l'altra, sembrano quasi una supercazzola. Quindi è un ciclo di 19 anni basato sull'osservazione che 19 anni solari corrispondono esattamente, quasi, qua già ci sono delle contraddizioni da complotto, a 235 mesi lunari e a 6940 giorni. Ciclo metonico si basa nei calendari lunisolari aritmetici, perché se non invece non lo vuoi fare aritmetico salta tutto, cioè non ci sono più coincidenze così precise. Quei calendari che mantengono il sincronismo sia col corso del sole sia con quello della luna per mezzo di approssimazioni dei moti reali medi dei due astri sono aritmetici, per esempio il calendario ebraico, quello ecclesiastico utilizzato dalla Chiesa Cattolica per il calcolo della Pasqua. Metone nel 432 a.C. Si è messo a pensare al suo ciclo sol lunare, però in verità esisteva anche da prima. Nel mondo arabo è arrivato Maometto e ha detto no, io mi baso solo sulla luna, e anche loro col tempo non si capisce mai se sono più avanti più indietro, e il tempo è finito di parlare di ciclo metonico. E vedi chi è Massimo. Sì, vai Marta, sparaci un bel testo. Vengono per la mostra, ma li hai fatti entrare? Dico che non ho fumato dentro. Vai Marta. Non ce l'ho. Non ce l'hai? No. Ha detto qualcosa che non era scritto, pazzesco. Cari ascoltatori, nel bisogno di dire qualcosa che non sia sempre solo tutto e niente e che renda materiale le idee, siete tutti invitati a Roma il 22/02/2022. Ci andiamo a piedi. Il mondo sarebbe un posto migliore se tutti camminassimo un po' di più. Tutta l'Italia si fa in un paio di settimane È una bella esperienza. E dopo esserci ritrovati tutti per la strada, e infine alla matrice, potremo stabilire nuovi assiomi, creare nuovi teoremi e tornare a casa a vivere diversamente, liberi, forse un po' più liberi. Link per ripensare alla libertà. Partecipazione delle idee per un mondo migliore, come lo vorremmo, come arrivarci, perché lo pensiamo. Ci troveremo alle porte di Roma e ci sarà silenzio. Torneremo a vivere il mondo, veramente. Grazie per questo annuncio, ci vediamo nella prossima data palindroma, sempre per questioni di tempo, così avremo tempo per accogliere gli ospiti in Alge, che vengono a vedere le fotografie di Passi, la mostra di Enrico. Time is running out, dei Muse. comunque, per tornare sulle nostre supercazzole temporali, col ciclo metonico, adesso vi faccio uno spippolamento sul ciclo metonico di 235 mesi lunari, è ripartito in 12 anni, 12 mesi lunari e 7 anni di 13 mesi, quindi 12 per 12 più 7 per 13 fa 235. Occorre perciò aggiungere ogni 2 o 3 anni un mese, detto mese embolismico. Gli anni di 13 mesi, che sono detti embolismici, sono il terzo, il sesto, l'ottavo, l'undicesimo, il quattordicesimo, il diciassettesimo e il diciannovesimo anno del ciclo. Il ciclo metonico è un perfezionamento, e hai voglia, della octa eteride. Pensa com'era la octa eteride, visto che già il ciclo metonico è un casino del genere. Un ciclo di 8 anni in cui gli embolismici erano il terzo, il sesto e l'ottavo anno. Ma questi che fanno calendari sono pazzi. Ladies and gentlemen, siamo quasi alla fine della nostra oretta del complotto. Adesso direi che è il momento di ripescare la lettrice professionista e il medico indiano per concludere questa ora del complotto numero 10. Calati nella serietà del momento con Marta che ci legge De Lonfo. Il lonfo non va terca né gluisce, è molto raramente barigatta, ma quando soffia il bego a bisce bisce, stilenca un poco e gnaggio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, arraferria malversa e sofolenta. Se cionfi, ti sbiduglia e ti arrupigna. Se lugri, ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo a margelluto, e che bete, zucchia e fonca nei trombazzi, fa leggi cabusia, fa gisbuto, e quasi quasi in segno di sberdazzi, gli a far feresti un niffo, ma lui, zuto, talloppa, ti sbernecchia, e tu la cazzi. So finally, I take the word after this beautiful woman talking about the lonfo, and I am very very glad to participate to this fantastic transmission on the web radio of X-Alge. And there is not much I would say to you. Of course, I'd like to remind that my character, my voice, all the content of what I say here is totally not my responsibility. It's totally admitted to a medical resident in Milan. I would not say his name because of privacy issues. And I'd like you to take life less seriously, of course. So, goodbye everybody from Mumbai. From the beautiful bay of Mumbai, and thank you everybody in questa domenica grigia. Addio, alla prossima. pictures on my wall. I still know the places where they're from. I still find all answers in my dreams. I still feel the gum under my shoe. How about time?